24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il G8 di Deauville in Francia, dove sono numerosi temi in agenda, tra questi la crisi in Grecia con il Fondo Monetario Internazionale che suona l'allarme. L'altra notizia della giornata è l'arresto del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic. A questo punto il percorso europeo di Belgrado potrebbe subire un'accelerazione. Per lo sport comincia l'attesa per la finale di Champions League. Il pronostico, nelle parole di Roberto Mancini, allenatore del Manchester City, squadra rivale del Manchester United, che sabato affronta il Barcellona. Monsieur Gaddafi doit partir. In apertura di questa edizione, come state ascoltando, il summit G8 in Francia. Ieri la prima conferenza stampa del presidente di turno, il francese Nicolas Sarkozy, che ha ribadito la necessità di un abbandono del potere da parte di Muammar Gheddafi in Libia e ha toccato anche la questione medio orientale. Ma tra i temi del G8 ci sono pure le questioni europee. Sentiamo. Il caso Grecia si affaccia al vertice del G8 di Deauville, dove la crisi del debito sovrano in Europa è stata individuata come uno dei principali rischi per la ripresa mondiale che si sta rafforzando. Nessun esame approfondito della situazione greca, ma i partner dei paesi europei, con gli Stati Uniti in testa, cominciano a mostrare una certa irritazione per le tensioni che questo provoca sui mercati internazionali e l'impatto sull'andamento dell'euro. Non è bastato da parte europea ricordare gli sforzi intrapresi nell'ultimo anno e non ha aiutato la dichiarazione rimbalzata da Lussemburgo, secondo cui il Fondo Monetario potrebbe rifiutarsi di sborsare la prossima rata dei prestiti alla Grecia. I tecnici del Fondo, dell'Unione Europea e della Banca Centrale sono ancora al lavoro ad Atene. Il G8 ha invece evitato di dichiarare un appoggio formale alla candidatura di Christine Lagarde alla direzione del Fondo Monetario in sostituzione di Dominique Strauss-Kahn, per evitare di infastidire ulteriormente i grandi paesi emergenti che lamentano il monopolio europeo su questa poltrona. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Deauville. Il Fondo Monetario Internazionale ha bisogno di garanzie finanziarie prima di poter elargire la prossima tranche di aiuti alla Grecia, lo ha affermato la portavoce Caroline Atkinson. L'Europa non ha esaurito i suoi scenari di intervento a sostegno della Grecia, l'ipotesi di un fallimento del paese è da respingere perché avrebbe conseguenze più drammatiche di quelle causate dal crack di Lehman Brothers, così il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. E la commissaria europea alla pesca Maria Damanaki non ha inteso porre la questione dell'uscita di Atene dall'euro, ma con il suo intervento ha voluto contribuire a convincere i greci che per tornare ad avere sviluppo e occupazione l'unica strada è quella che passa per le riforme e il risanamento dei conti. Così la precisazione di una portavoce della Commissione europea. Voltiamo ora pagina con l'arresto di Ratko Mladic. Penso che per la Serbia le porte dell'Unione Europea siano ora aperte, lo ha affermato a Belgrado il presidente serbo Boris Tadic. Non ha opposto resistenza il vecchio dall'aspetto del contadino quando i corpi speciali dei servizi segreti lo hanno svegliato all'alba in una fattoria nel nord-est della Serbia. Si è conclusa così la caccia al boia di Srebrenica. L'ex generale serbo Ratko Mladic, accusato di genocidio e crimini di guerra, una caccia durata ben 16 anni. Il suo arresto ha suscitato l'unanime applauso della comunità internazionale e soprattutto dei familiari delle sue vittime. La cattura di Mladic ora apre alla Serbia le porte del percorso di adesione all'Unione Europea, ma non alza ancora il velo sulle responsabilità di chi gli ha garantito la latitanza in tutti questi anni. A breve l'accusato eccellente del Tribunale dell'Aia sarà estradato in Olanda, ma nel frattempo il governo di Belgrado dovrà fronteggiare l'ondata di proteste annunciata dalle forze ultranazionaliste che non sono ancora riuscite a fare i conti col passato. Elisa Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'arresto di Ratko Mladic ha rimosso un ostacolo sulla strada della Serbia verso l'Unione Europea. Belgrado ha dato prova di credibilità, così il commissario per l'allargamento Stefan Füle. E ora ascoltiamo un profilo di Ratko Mladic. Evo nas, 11. jula 1995. godine. 11 luglio 1995, è il terzo anno della guerra in Bosnia e Ratko Mladic parla alla vigilia del più atroce massacro cui l'Europa abbia assistito dalla Seconda Guerra Mondiale. È ora della vendetta, dice, prima di entrare nell'enclave ONU Srebrenica e fare almeno 8.000 vittime civili tra i musulmani bosniaci e i rifugiatisi. È questo l'episodio cui è indissolubilmente legato il suo nome, il nome di un militare, ora 69enne, che dopo aver visto il padre ucciso dagli ustascia croati durante la Seconda Guerra Mondiale, è cresciuto nell'esercito jugoslavo di Tito e nel 1995 1992 è divenuto il comandante delle forze militari dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, agli ordini del presidente Radovan Karadžić. Dall'assedio di Sarajevo al massacro di Srebrenica, appunto, Mladić è diventato il simbolo della pulizia etnica contro musulmani e bosniaci e proprio per questo nel 1995 è stato accusato dal Tribunale Penale Internazionale dell'AIA di crimini contro l'umanità e genocidio. A guerra finita però ha continuato a vivere indisturbato nella Serbia di Milošević e nonostante il mandato di cattura internazionale, per anni ha percepito una pensione, è andato al ristorante, a caccia e persino allo stadio. Poi, con la caduta del dittatore, la latitanza, che secondo un quotidiano di Belgrado, sarebbe costata sul piano politico, diplomatico e finanziario 150 euro al mese ad ogni cittadino serbo. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo ad aprire la pagina economica, lo facciamo con la borsa, sentiamo. Milano ha chiuso in calo dopo due sedute di rialzi, penalizzata, come le altre borse europee, dai dati americani peggiori delle attese e dalle dichiarazioni del numero uno dell'Eurogruppo, secondo cui il Fondo Monetario Internazionale potrebbe non versare la prossima tranche di aiuti alla Grecia prevista per giugno. A Piazza Affari il FTSE MIB ha segnato un calo dello 0,7%, a causa soprattutto delle vendite che hanno colpito il comparto bancario positivo alla vigilia. La peggiore nel settore è stata la Banca Popolare di Milano, seguita dal Banco Popolare e da Unicredit con cali intorno al 3% circa. Hanno tenuto invece i titoli legati al petrolio, beneficiando del buon andamento di energetici e materie prime. Saipem ha così guadagnato lo 0,72% e Tenaris lo 0,78%, premiata quest'ultima anche dal giudizio degli analisti di Nomura, secondo cui gli investitori potrebbero iniziare ad approfittare della recente debolezza del titolo. In forte calo l'Ottomatica, meno 3,6%, mentre ha tenuto Pirelli, più 0,9%. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Servono sanzioni più forti per incoraggiare i paesi dell'Eurozona a rispettare le nostre regole comuni, lo ha affermato il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. In Europa i meccanismi di gestione della crisi dei debiti sovrani restano inadeguati, ciò contribuisce a destabilizzare i mercati, allarga il contagio, amplifica il costo politico sia nei paesi creditori che in quelli debitori, così la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Per gli europei la tutela dell'ambiente e le azioni di lotta contro il cambio climatico hanno bisogno di uno specifico strumento finanziario. Lo chiedono quasi l'85% degli europei interpellati in una recente consultazione pubblica sul futuro dell'attuale programma Life Plus. Siamo allo sport, vigilia della finale di Champions League domani sera a Wembley. Abbiamo chiesto un parere a un allenatore che Barcellona e Manchester United le conosce davvero bene per essere stato loro avversario da calciatore e poi in panchina. Roberto Mancini, mister del Manchester City, intervistato da Dario Ricci. Sembra favorito il Barcellona, ma giocandosi la partita a Wembley in Inghilterra credo che sarà un po' più difficile, insomma, rispetto magari a Roma 3 anni fa. Vista dalla panchina, che sfida si aspetta? Quale può essere la mossa a sorpresa? Oppure sono due squadre che si conoscono talmente bene che conterà molto di più la prestazione dei singoli di qualsiasi quadro tattico? Beh, sicuramente la prestazione dei singoli conterà, perché poi da una parte c'è Messi, dall'altra c'è Rune. Io credo che questi due siano giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento, però poi allo stesso tempo le due squadre sono squadre vere in tutti i sensi. Da citizen tifa Barça? No, assolutamente. Io sono un allenatore del City, ma guarderò la partita da sportivo, da tifoso, quindi che vinca migliore. Direi che quel gol in rovesciata di Rooney che avete preso nell'ultimo derby, però forse le ha strappato un applauso anche a lei, che pure quella rete l'ha subita. Sì, beh, Rooney fece un gran gol. Questi sono i gol che fanno i campioni e che decidono le partite, quindi anche per questo credo che poi nella finale di Wembley saranno decisivi loro. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo che a Deauville si chiude il vertice G8, si svolge anche il Consiglio Europeo delle Telecomunicazioni ed Energia, mentre Bruxelles rende noti oggi gli indicatori sulla fiducia di imprese e consumatori. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia a Mauro De Angeli, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.